Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Roberto Zuccato, Ares Line, sedie e design. Di Silva Menetto. Ares Line è un'azienda che si trova a Carré, in provincia di Vicenza. Produce sedie e poltrone ergonomiche per uffici, per teatri, per università che arrivano in tutto il mondo. Nonostante la crisi, lo scorso anno il suo fatturato si è chiuso con un più 17% e per quest'anno il dato dovrebbe essere più o meno simile. L'azienda è stata fondata da Roberto Zuccato, che alla fine degli anni 80 ha scelto di fare l'imprenditore perché stava per nascergli un figlio. Ma è una storia particolare. Io ero responsabile commerciale, avevo fatto alcune esperienze in alcune aziende e era all'inizio dell'89 e mia moglie mi informò che avremmo avuto un figlio di lì a poco, e lì nacque in me subito l'idea, il pensiero. Io ero in giro per il mondo 20 giorni a mese e mi sono detto: devo vederlo nascere mio figlio, che vuol dire anche devo vederlo crescere. E allora lì mi sono chiesto se effettivamente non c'era una via migliore per poter affrontare questa nuova situazione, e quindi automaticamente mi è venuta l'idea di pensare di fare l'imprenditore. Ne parlai con mio fratello, che a quel tempo aveva un'azienda di materie plastiche, e gli chiesi se per caso aveva qualche idea. Lui mi disse che da poco avevano costituito con altri imprenditori una piccola azienda in startup che produceva poltrone per ufficio. Gli chiesi cos'erano esattamente le poltrone per ufficio, perché era un settore che non avevo mai frequentato. Roberto Zuccato era stato direttore commerciale. L'esperienza dei soci è quella di gestione e di vendita, più che di lavorazione del prodotto, caratteristica che li differenzia da molte altre aziende del Nord-Est. Forse qui è che ha fatto la differenza rispetto a molte altre aziende, è che non c'era solo il sapere nelle mani, che era una caratteristica tipica dei nostri imprenditori, che hanno costruito delle realtà incredibili sapendo fare qualcosa. Noi, conoscenza nelle mani, io veramente tappezziere non l'avevo mai fatto, ho una laurea in elettronica e quindi era completamente fuori dalle mie conoscenze, però avevo la conoscenza dei mercati internazionali, avevo imparato come si conduce un'azienda, l'equilibrio finanziario, e quindi insieme al dottor Franceschi, appunto il mio socio, laureato in economia e commercio, abbiamo dato vita a questa realtà che è sempre stata trainante dalla testa, non spinta da dietro. Tappezziere sono dei ragazzi che abbiamo cercato sul mercato. Chiaramente c'è una partenza più lenta, perché se tu sai fare quel lavoro e lo sai comandare, magari dal punto di vista produttivo riesci ad avere più velocemente dei risultati. Noi non avevamo queste competenze, però sapevamo come andare sui mercati. E infatti il primo mercato internazionale è quello francese. Partivo di notte con la valigetta, salivo sul treno che andava a Parigi, arrivavo la mattina presto a Parigi, perché prendere l'aereo a quei tempi non c'erano le tariffe, era l'89, non c'erano ancora le tariffe agevolate, per cui si arrivava la mattina, si andava dal cliente, magari si ritornava dopo un giorno, avendo dormito anche, mi ricordo, i Formula One, che sono i peggiori hotel che si possono trovare in Francia. È nato lì perché lì c'erano dei cataloghisti. I cataloghisti sono delle persone che scelgono dei prodotti, li mettono a catalogo, poi stampano i cataloghi con il nome del distributore, e quindi facendo un contratto con loro ci permetteva di produrre grandi quantità e quindi cominciare subito ad entrare in un'economia di scala, perché se non hai in mano il brand è estremamente difficile andare alla distribuzione diretta. In Francia arriva anche la concorrenza. Concorrenza con prezzi minori che fa decidere alla Ares Line di cambiare e di puntare al design. Da una telefonata di l'amministratore delegato di una di queste ditte francesi, in cui mi diceva: guarda che ho qua il tuo competitor che ti abita a 10 km, che mi dice che la stessa poltrona che fai tu me la può fare a 10.000 lire in meno, mi sono detto: non è questo il mio futuro. E da lì abbiamo deciso che era il momento, erano già 3 anni di vita dell'azienda, di fare il salto di qualità. E da quel momento abbiamo deciso di puntare alla qualità e al design del prodotto, quindi forte personalizzazione, forte caratterizzazione. Arrivano in fabbrica i primi designer. Poi il design diventa sempre più importante per la definizione del prodotto e arriva la decisione di rivolgersi a una grande firma. Poi verso gli inizi del 2000 ricordo che sentivamo fortemente il bisogno di alzare l'immagine dell'azienda, il brand, per cercare quindi una consacrazione soprattutto negli studi di architettura, che sono quelli che poi fanno gli opinion maker e decision maker. Per cui abbiamo pensato a Pininfarina, era una firma estremamente prestigiosa, lontana da quello che era il mondo omologato dell'ufficio, e quindi ci permetteva di arrivare con un messaggio nuovo, che era un messaggio però di forte impatto emotivo, perché oggi noi riusciamo a vendere poltrone Pininfarina in Cina, un mercato assolutamente dominato dai nostri concorrenti cinesi. Uno dei quali però ha deciso di elevarsi anche lui d'immagine, decidendo di distribuire i prodotti Ares Line con marchio Pininfarina. Pininfarina, Giacobone Roy, Giovanni Baccolini firmano i prodotti Ares. Nel frattempo la produzione si allarga anche a un altro settore, dalle sedute di ufficio alle sedute per la collettività, teatri in tutto il mondo, sale convegni, le maggiori università italiane e alcune prestigiose università all'estero, come Oxford e la New York University. L'idea è nata perché ci preoccupavamo di che futuro avrebbe potuto avere il mondo dell'ufficio, perché c'era una crescita tumultuosa e è vero che sì, le prospettive erano che sempre più persone lavorassero sedute, però c'era anche un mercato molto maturo in tutto il mondo e anche una certa facilità nel mettersi a produrre questo tipo di prodotto. Allora abbiamo pensato che nella trasformazione mondiale ci stava anche, e siamo stati profeti, fortunatamente, siamo riusciti a capirlo in anticipo, ci sarebbe stato un dirottamento in quello che era il mondo della formazione, dello spettacolo, della cultura, del tempo libero. Fortunatamente, siamo riusciti a capirlo in anticipo, ci sarebbe stato un dirottamento in quello che era il mondo della formazione, dello spettacolo, della cultura, del tempo libero. Cioè si lavora, però sempre più i paesi sviluppati dedicano più tempo al proprio tempo personale. Oggi l'azienda ha un fatturato di circa 17 milioni di euro, esporta il 50% della sua produzione, è andata in Brasile e Nord America, lavora molto in outsourcing, ma tenendo in mano le redini del prodotto. Io credo che oggi più che mai, con questa situazione internazionale difficile che si è venuta nuovamente a creare, questa nuova normalità, così chiamata gli americani, e sia diventato ancora più fondamentale avere in mano saldamente l'inizio e la fine di quella che è un'attività aziendale. L'inizio, quindi l'innovazione, il design, la ricerca, il deposito dei brevetti, e la parte finale, la parte distributiva, dove è importante avere il brand, dove è importante avere un servizio adeguato. Tutto quello che c'è in mezzo può essere trovato, non è più fondamentale. Come una volta può essere trovato in qualsiasi parte del mondo o anche qui vicino a noi, come faccio io, avendo molto outsourcing e quindi facendo produrre le parti esternamente. Però l'assemblaggio finale, il controllo qualità, la distribuzione e lo sviluppo del prodotto ce l'abbiamo fortemente in mano. La lavorazione è esterna all'azienda, ma è geograficamente vicina. Noi abbiamo sempre privilegiato un prodotto totalmente italiano. L'unico componente che importiamo dalla Germania sono le pompe a gas, quelle che reggono in altezza la poltrona, perché non c'è una produzione italiana. Per il resto è tutto prodotto locale, italiano, di alta qualità, per il quale siamo particolarmente orgogliosi perché non abbiamo mai ceduto alle sirene asiatiche e questo forse è stato anche uno dei motivi di successo degli ultimi anni, quando la clientela ha veramente notato la differenza tra noi e altri nostri competitor. Poi c'è il Brasile che dal 2003 per Ares Line non è solo esportazione, ma anche produzione. E oggi la stessa operazione è in atto in Canada. Quello che abbiamo voluto fare in Brasile è stata l'internazionalizzazione. In America Latina noi siamo presenti da molti anni, abbiamo un importantissimo distributore in Cile, in Argentina. In Brasile avevamo dei problemi che sono dovuti ai dazi doganali altissimi. Per cui abbiamo valutato che l'unico modo per essere presenti sul mercato era quello di produrre localmente. Abbiamo quindi costituito una società nel 2003 assieme a un socio brasiliano. Noi abbiamo la maggioranza, si chiama Ares Line Latino America, e lì produciamo, abbiamo duplicato gli stampi e praticamente produciamo tutto quello che produciamo in Italia per il mercato brasiliano, dando quindi il servizio, dando quindi il just in time, la velocità delle consegne, tutto quello che oggi richiede un mercato. E poi adesso stiamo partendo con l'Ares Line Nord America, che è localizzata a Toronto, in Canada, stesso concetto. Socio locale e questa serve a produrre per il mercato nordamericano, quindi Stati Uniti, Canada e Messico. Nel 2006 arriva un fondo di investimento, Cape Natixis. Il progetto è quello di aggregare aziende del settore per affrontare meglio i mercati internazionali. Sì, il fondo Cape Natixis è arrivato, ci hanno cercato loro, ma è arrivato in un momento in cui noi sentivamo l'esigenza di fare aggregazione. Era il momento in cui vedevamo nei mercati mondiali il bisogno di arrivare strutturati e anche con una maggiore capacità di offerta. E quindi vedevamo nell'aggregazione uno dei elementi fondamentali per lo sviluppo futuro. E il fondo arrivò a proposito, l'idea era quella di trovare delle aziende complementari alle nostre per fare un'aggregazione, e di questa aggregazione il fondo doveva essere un po' il regista. E purtroppo le cose non sono andate nei tempi come speravamo. Perché? Perché c'è poca disponibilità da parte degli imprenditori di fare aggregazioni con una partecipazione societaria di equity, e quindi le aziende che avevamo identificato, che dovevano avere come noi un certo brand riconosciuto e presenza sul mercato, per motivi diversi non abbiamo trovato disponibilità, o perché andavano troppo bene, o perché non c'era magari la lungimiranza del proprietario, e quindi è stata un po' ritardata questa fase. Ma l'idea dell'aggregazione delle reti d'impresa resta e potrebbe delineare il futuro dell'azienda. Intanto la scelta tra gestione familiare e manageriale per i prossimi anni pare risolta. Io direi all'interno della famiglia, che però è manageriale, nel senso che io e il mio socio, il dottor Franceschi, credo che resteremo saldamente al timone dell'azienda. Credo che entrambi abbiamo delle capacità e delle conoscenze manageriali che ci permettono di affrontare le nuove situazioni mondiali. I figli sono ancora giovani, il mio studia ingegneria, i figli di dottor Franceschi sono ancora più piccolini, quindi non c'è a breve una previsione. Però ci stiamo organizzando il futuro con le reti d'impresa. Noi crediamo, tornando al discorso che le ho fatto prima sulle aggregazioni, che non riuscendo a fare un'aggregazione su base equity, quindi con partecipazione societaria, abbiamo già messo insieme un gruppo di aziende complementari alla nostra per andare a offrire il prodotto sui mercati, agli studi di architettura, al cliente finale. Adesso, tra l'altro, ci è arrivato in aiuto una legge nell'ultima finanziaria, che è appunto Rete Impresa, che abbiamo presentato la settimana scorsa anche in associazione, che aiuta le imprese che appunto decidono di fare una rete tra loro con delle agevolazioni fiscali. Intanto è arrivato un incarico associativo. Roberto Zuccato è presidente dell'Associazione Industriali di Vicenza e la sua vita in azienda è cambiata. Almeno per il momento. Beh, mi ha cambiato la vita in assoluto, in generale. Era una presidenza non cercata, sono stato spinto dalla base che chiedeva un certo tipo di cambiamento. Io, prima di accettare la candidatura, ho parlato ovviamente prima col mio socio, sia il socio storico che anche il socio come fondo, e poi ho parlato con i ragazzi in azienda. I ragazzi si sono detti orgogliosi nell'eventualità, e gli ho detto: sapete che però dovrete lavorare tutti molto di più per sostituirmi. Loro hanno detto: non si preoccupi, lei vada. E devo dire che sono stati di parola, perché i dati confermano questo risultato. Io purtroppo in azienda ci sono molto poco, riesco ad andarci qualche pomeriggio durante la settimana. D'altronde noi Confindustria abbiamo un incarico che dura 4 anni, non c'è la possibilità della rielezione, e credo che nessuno la cerchi quando è arrivato alla fine, e quindi cerchiamo di dare il meglio di noi stessi in questi 4 anni per aiutare i nostri associati e il territorio. Avete ascoltato Voci d'Impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.